Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo una storia italiana, italianissima, una storia di imprenditoria ma anche di avventura, con quel tocco di casualità, di improvvisazione, forse anche di cialtroneria, però una storia che racconta di una irresistibile ascesa. Bisogna entrare in un mondo particolare, quello che ancora oggi voi potete trovare se col vostro telecomando cominciate ad andare avanti coi canali quando arrivate a 120, 150, 200, 300 oppure sulle piattaforme tipo Sky. Se partite dall'800 e cominciate ad addentrarvi in quel sottobosco di TV locali che offrono auto usate, orologi, pentole, materassi, coltelli, creme per l'erezione, qualsiasi cosa vi venga in mente, il tutto presentato da venditori incalliti che con una buona parlantina riescono a convincere le persone per fare la famosa telefonata per prenotare un'offerta esclusiva. Bene, oggi facciamo un salto nel passato, ma è un passato recente, per raccontare un po' come è partita questa attitudine tutta italiana a dar vita a centinaia di televisioni che vedono 30 persone ciascuna. Ebbene, un imprenditore che ha fatto della pubblicità televisiva e delle tecniche di vendita il suo punto di forza. È passato da un negozietto anonimo di provincia a un marchio conosciuto in tutta Italia, isole comprese. E quando dico Italia, isole comprese, qualcuno forse comincerà a capire di chi si parla. Non è il cavaliere, è il geometra. Eh sì, è così che si faceva chiamare da tutti il nostro protagonista di oggi, Giorgio Aiazzone. Un Aiazzone avrai, un grande amico che sceglierà perché saprà tutta la qualità. Con Aiazzone avrai legni pregiati e grandi architetti che non hai trovato mai. Con Aiazzone avrai. E beh, chi ha vissuto il periodo televisivo degli anni Ottanta, questa pubblicità se la ricorda benissimo, magari oggi la definiremo un po' trash, però in quegli anni, più ingenui forse, quel tipo di comunicazione aveva un successo incredibile perché parlava il linguaggio della gente comune. Chi per primo ha capito che con la pubblicità, con quel tipo di pubblicità, si poteva raggiungere un numero enorme di clienti potenziali è stato lui, Giorgio Aiazzone, nato il 3 aprile del 47 a Tollegno, in provincia di Biella. Biella, fino agli inizi degli anni Ottanta, era conosciuta per i lanifici, per l'industria tessile, marchi anche prestigiosi. È una città aristocratica e questo, come spesso accade in Piemonte, si traduce in una certa diffidenza per chiunque abbia voglia di uscire allo scoperto con magari idee che anticipano i tempi. Il Piemonte è una regione a basso profilo, a volte un po' troppo conservatrice, e chi vuole osare viene guardato con sospetto perché la vita di provincia porta anche, almeno in quegli anni, portava la voglia di conservare una certa tranquillità. Ma Aiazzone è un ragazzino esuberante, fin dai tempi della scuola sembra che in lui arda un fuoco che spesso lo porta a esibire il suo talento per il commercio. Giorgio non era propriamente un secchione, studiava poco ma riusciva a cavarsela egregiamente. Soprattutto mostrava già allora nei suoi comportamenti un istinto commerciale non indifferente. Ricordo ad esempio che, non avendo voglia di applicarsi nel disegno tecnico, aveva deciso di farsi aiutare da Virginio, un compagno di scuola, bravo, timido e non molto a mezzi. Funzionava così. Lui commissionava un certo numero di disegni per un certo prezzo, poi rivendeva quelli in esubero ad altri compagni non molto volenterosi, con prezzi calibrati, secondo possibilità. In questo modo conseguiva un utile che poi veniva destinato a fondo cassa per future cene tra amici. E questo è un ricordo della sorella Enrica, tratto dal libro Giorgio Aiazzone, l'uomo del fare, che lei ha scritto per le edizioni in linea d'aria. Alla fine arriva il diploma di geometra e per Giorgio Aiazzone inizia un lavoro vero e proprio nell'azienda di famiglia. Eh sì, perché il padre, Mario Giuseppe, è un artigiano che ha un piccolissimo mobilificio in città. Insomma, Giorgio, a 20 anni, è già un abile venditore di mobili. She's my dragon lady, I'm a dapper dame. She got a Saturday night special, and I'm a steady driver, babe. I'm a steady driver, babe. Yes, I'm a steady. Il mobilificio Aiazzone, quel piccolo negozio da cui è partito tutto, è situato in una via centrale di Biella e Giorgio comincia a cogliere la sua clientela. Ha una bella presenza e ha una parlantina infallibile, sa parlare con la gente, ha un dono naturale e gli affari di famiglia cominciano ad andare sempre meglio. Sentite la testimonianza di Ivo Ramella, un altro venditore, che racconta un aneddoto sul marmo rosa. Ricordo come fosse ieri una delle prime vendite a cui assistetti. Si trattava di una console in oro zecchino e marmo rosa, tipico complemento d'arredamento anni 60. Mentre fuori nevicava, Giorgio invitò una cliente a toccare con mano il calore di quel marmo. Ora tutti sanno che marmo e gelo sono da sempre sinonimi. La signora si lasciò persuadere e accettò di buon grado l'invito, soggiogata dal magnetismo di Giorgio. Incredibilmente ammise colpita: «È proprio caldo, quel marmo caldo, in pieno inverno, divenne il nostro tormentone per anni». Agli inizi degli anni 70 il padre Mario muore dopo una breve malattia. Giorgio ha tutto il peso dell'azienda di famiglia sulle spalle. È giovanissimo, ma ce la farà. Questo è l'inizio per lui di un colpo d'ala lunghissimo che gli consentirà in pochi anni di far conoscere il suo nome in tutta Italia. Non si lascia intimorire Giorgio, comincia a riorganizzare l'azienda, crea una rete di venditori giovanissimi, tutti sotto i 25 anni, e lui stesso comincia a viaggiare per l'Italia alla ricerca di fornitori di mobili. Eh sì, perché l'artigiano comincia a lasciare il posto all'imprenditore. Lui comincia a organizzare in pochi anni una rete di fornitori sparsi in giro per l'Italia, e questo gli permette di mantenere bassi i prezzi dei mobili. E quando c'è da risparmiare si sparge subito la voce, la gente comincia ad arrivare a frotte nel piccolo negozio. Hey now, you better listen to me, every one of you. We've got a lot of work to do. Forget about your women and that water can. E così nel 72 ci vuole una nuova sede e il negozietto del centro di Biella non è più sufficiente, la clientela comincia ad arrivare da tutta la provincia. Ma Giorgio Aiazzone non ha esaurito la fase di riorganizzazione dell'azienda e per lui la ricerca dei nuovi clienti diventa quasi una droga, come per tutti i grandi venditori. Lui arriva in negozio puntualissimo, sempre alle 7:30 del mattino. È l'orario in cui arrivano i camion dai fornitori, quelli pieni di mobili. Poi inizia la giornata, che lui conclude non prima delle 10 di sera. È così che si fa successo, ragazzi, nella vita. E questo è l'orario che peraltro svolgono quasi tutti i suoi collaboratori, i suoi dipendenti. Tutti sono motivati da lui, è un leader, il geometra. Anche in famiglia l'atteggiamento non cambia. Lui ci portava sempre in azienda, per lui era la vita, era la famiglia era in azienda, perché la nostra mamma ha sempre seguito papà. Lui ogni volta che ci lasciava a tavola ci salutava col suo segno della benedizione, e quando ci voleva caricare, perché noi dobbiamo vendere, era il nostro motto e ce lo faceva ripetere all'infinito. Elisabetta è una delle tre figlie di Giorgio Aiazzone, ha avuto tre femmine, Elisabetta, Marcella e Giorgia, nate dal matrimonio con una bella ragazza alta, magra, con gli occhi verdi, che si chiama Rosella Piana. È un amore a prima vista e anche lei è coinvolta nella vita dell'azienda, perché per Aiazzone il mobilificio è un po' il figlio maschio che lui non è mai riuscito ad avere. E per far crescere bene un figlio bisogna insegnargli a parlare. Negli anni 80 c'è solo un modo per parlare, perché un'azienda faccia sapere quello che sa fare, che cosa ha da vendere, e il modo è fare la pubblicità. Mobili Aiazzone Biella, pagamento fino a 3 anni senza cambiali. Aiazzone, per il mobile al massimo. Si parte dai cinema di Biella, poi radio locali che trasmettono in piccole zone, e poi i primi spot televisivi trasmessi da televisioni private come Tele Biella, e poi a Castelletto d'Orba che c'è Teleradio City che copre il Piemonte, la Valle d'Aosta, un po' di Liguria. La voce si sparge, c'è Dino Croco che ha una voce cupa, un baffo importante, che diventa il primo testimonial del mobilificio, e la gente comincia ad arrivare a Biella da sempre più lontano. The island that is silent the gulls still hunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? 1976, un anno storico per la comunicazione italiana. Una sentenza della Corte Costituzionale cambia le regole dell'emittenza televisiva, mette fine al monopolio Rai e così le piccole televisioni private cominciano a proliferare in tutta Italia. Iazzone comincia a diffondere i propri spot in un numero sempre crescente di televisioni. È un tormentone. Dopo Teleradio City arriva Antenna 3, Telemilano 58, Telegenova, Telespazio Calabria, Videolina Cagliari, e insomma in tutta Italia si sentono slogan come esci dall'autostrada a Carisio e un mare di cartelli ti porterà fino a Biella. È una frase che era diventata in quegli anni un modo di dire: vai lì che un mare di cartelli ti porta là. E poi altre frasi entrate nell'immaginario collettivo come gratis un architetto a casa vostra. E gli spot, gli slogan vengono creati tutti direttamente da lui. Eh sì, perché Giorgio Iazzone non si è mai rivolto per tutta la sua vita a un'azienda di pubblicità. Gli slogan nascono dall'ascolto delle persone che vogliono avere qualcuno a disposizione, un architetto che li segua passo passo, vogliono essere coccolati, accolti come ospiti. Arrivano i primi regali: un ciondolo per la signora, un orologio al capofamiglia, un pupazzo per il bambino. Sì, il pupazzo delle Proto Milka, che diventa desiderato dai bambini di quegli anni, come era per quelli delle generazioni precedenti, non so, la mucca Carolina, cioè il gadget che fa la storia. Al sabato e alla domenica il piazzale davanti al mobilificio si blocca, arrivano i vigili per regolamentare l'afflusso delle auto che arrivano in città per visitare l'esposizione, gli alberghi si riempiono, la notte magari viene pagata dal mobilificio per i clienti speciali, quelli che arrivano con l'intenzione di acquistare tutto l'arredamento di casa. Insomma, la vita a Biella è cambiata. Iazzone è un pioniere, molte delle soluzioni che lui inventa oggi sono comunemente utilizzate da tutti. Per esempio è stato il primo a pensare alle aperture domenicali, il primo a omaggiare i clienti con oggetti che non venivano venduti nei negozi, il primo a offrire il pranzo ai propri clienti. Sono dettagli che lo rendono in pochi anni un imprenditore ricco e potente, un uomo che se avesse continuato la sua attività avrebbe sicuramente investito nelle televisioni, avrebbe potuto diventare uno dei più grandi imprenditori italiani. Purtroppo dobbiamo usare il condizionale perché il destino per lui ha un altro progetto, un progetto tragico. Stiamo raccontando la storia di Giorgio Iazzone, un imprenditore biellese che a 20 anni si trova in mano l'azienda del padre, che è morto prematuramente, ha preso le redini di un piccolo mobilificio di famiglia, lo ha trasformato in pochi anni in uno dei negozi di mobili più conosciuto d'Italia. E il tutto attraverso una rete di comunicazione portata a termine con spot pubblicitari inventati da lui, trasmessi dalle TV private di tutta Italia. E siamo gli inizi degli anni 80, bisogna far qualcosa di più perché la filosofia di vita di Iazzone si riassume in uno slogan: vendere, vendere, vendere. Vieni, vieni, vieni da Iazzone, quanti mobili troverai? Vieni, vieni, vieni da Iazzone e da casa tua ne avrai. Vieni, vieni, vieni da Iazzone, vieni e non ti pentirai. Vieni in moto o in barella, ma vieni a Biella, ma vieni. E le televendite nelle TV private diventano il modo migliore per veicolare le offerte del mobilificio Iazzone. Ci sono Dino Croc e Walter Carbone che sono i primi testimonial. Giorgio sente che bisogna fare il grande salto, comincia a acquistare spazi in tutte le TV private del paese, stanno nascendo i primi network, le televendite si registrano negli studi di Rete A e poi vengono diffuse in ogni regione d'Italia. È il momento giusto per trovare un testimonial di eccellenza eccezione, una persona speciale che possa diventare il simbolo del mobilificio Aiazzone. Questo TV Color gratis e per il tuo arredamento è la novità estate Aiazzone. Gli architetti ti ospiteranno dal lunedì al venerdì a pranzo e cena per la tua vacanza gratuita sulle Alpi Biellesi. Potrai acquistare questo soggiorno che ti sarà consegnato gratuitamente in tutta Italia, isole comprese, a solo 1.450.000. Lo pagherai come vuoi, fino ad 8 anni senza cambiali, scegliendolo tra 1.000 ambienti garantiti dal marchio d'oro Aiazzone. E al sabato la grande festa Aiazzone. Provare per credere. Questo signore era Guido Angeli, ne parleremo ancora. Aiazzone ormai è un caso nazionale, oggetto di studio anche per gli esperti di marketing che analizzano i risultati raggiunti da quello che ormai tutti chiamano il geometra. Da un negozio con 2 commessi siamo a un impero con 160 dipendenti con un fatturato di oltre 60 miliardi di lire. Sulla statale Trossi, quella che collega Biella a Vercelli, passando per Carise dove si incrocia l'autostrada Torino-Milano, viene aperto un nuovo negozio, 15.000 metri quadri, e lì vengono allestiti anche gli studi televisivi per produrre in proprio le televendite. Cominciano ad arrivare i pullman a Biella, pullman di clienti che raggiungono il negozio da tutta Italia e per un soggiorno a Biella. Biella diventa una località turistica, c'è il famoso invito a pranzo con gli architetti, naturalmente a patto che si concluda l'acquisto dei mobili. Poco importa che intanto comincia a correre voce che la qualità dei mobili sia scarsa, che magari le consegne siano sbagliate, che magari non tutti sono soddisfatti dell'acquisto. In qualche modo Aiazzone per i palati più fini diventa anche sinonimo di seconda scelta, questo va detto, ma non importa. Aiazzone sta proseguendo imperterrito con nuove idee imprenditoriali, altri investimenti nelle TV, crea il consorzio Globo, acquista le prime frequenze televisive. Stiamo parlando della prima metà degli anni Ottanta. In quel periodo Aiazzone viene accostato a un altro signore, in questo caso cavaliere, che sta costruendo il suo impero televisivo, ovviamente Silvio Berlusconi. Giorgio Aiazzone acquista a Biella una villa in stile Liberty, tra le più belle della città, Villa Reda, fa costruire sul tetto un solarium, una piscina, in realtà se la gode poco quella villa perché lui è sempre in azienda, però insomma ha vinto. E poi c'è un altro progetto ambizioso, una struttura di credito al consumo, una specie di banca Aiazzone che possa elargire finanziamenti ai clienti che vogliono pagare a rate. Oggi tutti comprano a rate, qualcosa di normale, ma nel 1985 c'era ancora una generazione, io me lo ricordo bene, in cui il debito con le banche, che si faceva solo attraverso le cambiali, era qualcosa di molto pericoloso, di ansiogeno. I miei genitori mi dicevano: io non ho mai fatto debiti, come se fosse un vanto. Oggi tutti abbiamo qualcosa che stiamo pagando, che finiremo di pagare magari tra 20 anni. E poi sta nascendo un nuovo progetto, un centro commerciale che ricordi quelli americani, una esposizione di mobili dove le persone seguono un percorso obbligato che le porta a visitare ogni angolo del negozio, come negli autogrill, no? Quando entri e per uscire devi fare tutto il giro e vedere qualsiasi cosa. E lì non si devono vendere solo mobili, ma anche accessori per la casa e altri articoli. Insomma, stiamo parlando, insomma, oggi avete capito benissimo a cosa mi riferisco. Se la storia fosse andata in un altro modo, forse oggi mangeremmo delle polpette fatte a Biella invece che roba fatta o comunque di matrice svedese. Aiazzone ha acquistato un terreno enorme lungo la strada che collega Biella a Carisio. Siamo vicino all'aeroporto turistico di Cerrione. Lui immagina già questo aeroporto come un punto di atterraggio dei voli charter carichi di clienti. Sì, forse è un visionario, ma lui sta veramente mirando in alto. Intanto c'è un capannone di 50.000 metri quadri che comincia a essere costruito. C'è anche in progetto un parco di divertimenti, in modo che le persone vengano a Biella sempre più per turismo e non solo per acquistare i suoi mobili. Sta diventando il Fitzcarraldo del Piemonte. Una grande novità per l'autunno 85 in TV. Si ride gratis in tutta Italia, isole comprese, non dal lunedì al venerdì né tantomeno il sabato, ma la domenica sera con la grande festa di Drive-In. Dite che vi manda Guido Angeli, provare per credere. Guido Angeli, che diventa testimonial della trasmissione Drive-In, lo fa prendendo in giro se stesso, insomma, questo per farvi capire il livello di popolarità raggiunto dal sistema di comunicazione Aiazzone. C'è un programma che in quegli anni era il programma Drive-In, che prende a prestito quello che pubblicizzava i mobili di Aiazzone. E tutto è legato alla figura di Giorgio, che controlla, che dirige tutto in prima persona. Se dovesse venire a mancare la sua guida, il suo castello crollerebbe immediatamente. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring. Nel 1985 70.000 clienti visitano il mobilificio Aiazzone, sono arrivati da tutta Italia. E intanto lui, Giorgio, segue ogni progetto, viaggia molto e da qualche anno si sta spostando per l'Italia col suo aereo personale, è un Piper. Naturalmente in città e nei piccoli posti sono tutti invidiosi, lo ritengono l'ennesima dimostrazione di ricchezza. Lui invece considera questo piccolo aereo fondamentale per non perdere tempo, perché lui non ha tempo da perdere, deve muoversi rapidamente. Giacomo Ramella è un pilota esperto dell'aeroclub di Cerrione, è lui che accompagna sempre Aiazzone nei suoi spostamenti. 6 luglio l'aereo è in volo sui cieli della Lomellina, lui sta rientrando dalla Toscana, il tempo non è dei migliori, c'è un temporale nella zona, le condizioni meteo non sono ottimali, ma lui, Aiazzone, ha voluto partire comunque perché ha troppi impegni di lavoro che lo stanno aspettando in città. Sull'aereo c'è anche Clelia Allegretti, è un giudice biellese con la quale Aiazzone ha trascorso la giornata parlando del suo nuovo progetto della città del mobile. Improvvisamente l'aereo viene colpito da un fulmine, entra in stallo, si avvita su se stesso, comincia a precipitare, perde pezzi, la fusoliera si apre, i corpi dei due passeggeri sono volati via. A Sartirana abita una signora, si chiama Ivana, e sera sta guardando la televisione, sente un boato fortissimo, la terra che trema. Quando esce in cortile trova il motore di un aereo, accanto c'è il corpo di un uomo. Poco più in là, centinaia di metri, una signora avverte i vicini di aver sentito un botto sul tetto della propria casa e c'è un altro corpo che viene trovato, il corpo di una donna. Il relitto dell'aereo viene trovato a poche centinaia di metri, sta bruciando. Quando i vigili del fuoco spengono l'incendio, a bordo c'è il corpo carbonizzato del pilota Giacomo Ramella. Non ci vuole molto per capire da dove fosse partito l'aereo e chi fossero le persone a bordo. Il sogno di Giorgio Aiazzone si spegne in una notte di luglio dell'86 sui cieli di Sartirana in Lomellina. Così come in quei vecchi film western nei quali nelle battaglie tra i soldati americani e i Sioux, una volta che veniva ucciso il capo, gli indiani si ritiravano perché avevano perso il loro leader, anche in questo caso accade pressappoco la stessa cosa quando muore Giorgio Aiazzone. Era un leader e perciò sì. come leader incitava tutti noi, diciamo, ogni giorno ci dava la possibilità, insomma, di caricarci per la vendita, di prepararci, e poi curava personalmente tutte le fasi dell'azienda. Sì. Eh sì, la sorella Enrica lo ricorda così, un leader, ed è così. Con la scomparsa di Giorgio Aiazzone il suo impero comincia a sgretolarsi, i clienti continuano ad arrivare, però comincia a diminuire il numero dei pullman e delle auto, al timone non c'è più lui, il capitano instancabile, quello che viveva la sua azienda 24 ore su 24. E qui adesso non mi dilungo troppo in vicende giudiziarie, in vicende finanziarie, non vi annoio, però di fatto c'è che la morte di Giorgio Aiazzone segna il declino. Il marchio viene venduto, poi viene gestito male, arriva il fallimento. Si ricorda un episodio del 2 giugno 2011 quando 200 clienti esasperati per aver pagato mobili che non erano stati mai consegnati assaltano un negozio a Pognano in provincia di Bergamo e cercano di portarsi a casa i mobili e deve intervenire la polizia. È un epilogo triste per questo imprenditore visionario che ha avuto grandi intuizioni e in grande anticipo sui tempi, e con Giorgio Aiazzone vivo tutto questo sicuramente non sarebbe successo. E oggi di quel sogno rimangono solo macerie, il capannone è abbandonato, il capannone quello che avrebbe dovuto diventare la città del mobile, ogni tanto viene utilizzato per organizzare dei rave party clandestini, pare. Ci sono controversie giudiziarie che non sono ancora concluse, sono saltate fuori finanziarie in Lussemburgo, in altri paradisi fiscali. Quello che rimane alla città di Biella comunque è il rimpianto per un'occasione mancata, per tanti posti di lavoro polverizzati in un attimo sui cieli della Lomellina, un rapporto che non è mai stato estremamente positivo, lo ricorda la sorella Enrica. È stato un rapporto difficile, sì. Forse oggi lo ricordano con rammarico, perché la città ha i suoi problemi, il mondo è cambiato, ha più difficoltà, perciò è molto molto ricordato con rammarico, perché ha portato Biella, diciamo, a farsi conoscere in tutta Italia, quello che oggi in effetti molti, soprattutto la nuova generazione, non conosce più. E fu molto contestato perché queste idee erano troppo innovative. Le invidie sono forti quando tu sali così in alto, soprattutto in un piccolo paese. Qualche malalingua diceva addirittura che Aiazzone avesse fatto un patto col diavolo che doveva scadere quella sera di luglio del 1986. Di fatto abbiamo raccontato la storia di un precursore dei tempi, di un sognatore, di un uomo che amava l'avventura, che amava visceralmente la sua azienda, un uomo che ha dato il via a un nuovo modo di fare marketing. È un metodo che oggi usano in molti, molto spesso voi guardate la televisione e non sapete che quell'idea era di Giorgio Aiazzone. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei, sui nostri social, insomma, se mi cercate sapete che mi trovate. Ciao, a lunedì. Like iron ravens, they spiral down, and they tilt.